Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Il buon vecchio Ötzi ritorna. Sì. La mummia è venuta dai ghiacci. Mi vorrebbe dire vecchia spugna. Addirittura. E per capire, adesso capirete perché ho detto questo. Poi vediamo. I titoli e poi incominciamo. Ötzi, la mummia del Similaun, era predisposta a malattie cardiocircolatorie. Lo rivelano i nuovi studi sul suo DNA. 28 studenti nello studio di Mebius vengono da un liceo scientifico toscano e ci parlano del loro punto di vista sulle nanotecnologie. Domanda bollente questa settimana. Gli ascoltatori ci chiedono perché il vapore emesso da una pentola sul fornello aumenta quando si spegne il fuoco. Anni 50 del secolo scorso, centinaia di ecuadoregni utilizzati come cavie umane per esperimenti sulla sifilide. La rivista Nature racconta questa vicenda, che emerge ora dopo molti anni. No, mi veniva da dire vecchia spugna, perché qui ancora un po' riusciremo a capire anche se beveva un po' troppo. Sì, magari si dava all'alcol, ecco, esatto. Aveva dei... tifava per qualche squadra, non lo chi so. Lo sa. Vabbè, però chiamiamo qualcuno che di sicuramente sa tutto, che è un genetista antropologo che l'ha studiata, girata e rigirata. È qui con noi Albert Zink. Buonasera, professore. Buonasera. Lei lavora per l'EURAC, che è appunto l'Accademia Europea della Ricerca, e in particolar modo per l'Istituto per le Mummie e l'Iceman, che appunto è proprio Ötzi. Ecco, ricordiamolo. Allora, quando è stato trovato? Trovato 20 anni fa. 20 anni fa, ma pensi 20 che... anni fa, sì. È proprio tanto. Però sì, però l'anno scorso c'è stato un grosso lavoro sul genoma di questa mummia, veramente molto particolare e unica al mondo. Adesso Zink ci dirà anche il perché. È stato studiato il genoma e soltanto settimana scorsa sono uscite delle rivelazioni su quello che era il comportamento anche e quello che era anche il suo aspetto genetico, le sue discendenze e eccetera, alcune eccetera. Sue malattie. Professore, perché questa mummia è così particolare? Perché è una mummia unica, è l'unica mummia che abbiamo qui nella nostra zona, diciamo negli Alpi. È una mummia molto vecchia, lui era vivo più di 5.000 anni fa. Lui ha dato tante informazioni sulla vita in questo periodo del fine del Neolitico, l'inizio dell'età di rame, che non abbiamo saputo prima, anche tutti con i vestiti, tutti i materiali che lui ha portato. Allora è una mummia unica, una mummia molto interessante. Però voi state prendendo campioni dei suoi tessuti, state facendo tutta una serie di analisi dalle quali vengono fuori tante cose. E tra l'altro è abbastanza sorprendente, riesce a spiegarci? Cioè, com'è che fate a dire che per esempio aveva dei problemi cardiocircolatori? Sì, abbiamo fatto un studio sul DNA di Ötzi. L'anno scorso abbiamo preso campione dell'ossa, anche dei tessuti molli. Poi abbiamo estratto il DNA e poi... era una sorpresa che il DNA era molto bene conservato. E poi abbiamo fatto un sequenziamento di tutto il DNA genomico, che era un lavoro grosso, ma era anche possibile perché adesso ci sono queste nuove tecnologie che lasciano fare questo lavoro. E poi abbiamo analizzato tutti i sequenzi, che sono tantissime, miliardi di sequenze, e poi abbiamo visto che lui ha una predisposizione per queste malattie del cuore, che era un rischio elevato per avere un problema grave del cuore, delle arterie. Ma come mai, professore? Cioè, di sicuro non faceva una vita ricca di grassi, sedentaria, non so come dire, non aveva i nostri problemi cardiocircolatori. Sì, questa è una grande sorpresa, perché sappiamo che il lifestyle, diciamo, la vita era una molto attivo, no? Sì. Non era grasso, non ha fumato, anche tutti questi rischi che abbiamo noi adesso, ma sul livello genetico questo rischio era già lì, e questo era molto importante a capire, che già più di 5.000 anni fa era questo rischio solo perché... l'informazione genetica era così, cioè era predisposto ad avere malattie di questo genere, anche aterosclerosi. Sì, questo è anche una cosa che forse è perché lui ha questa predisposizione, perché non può essere un altro motivo, perché pensiamo anche che la nutrizione era molto molto molto buona, no? Certamente ha mangiato anche la carne, ma ha anche mangiato molto cose vegetali, era molto attivo, allora appunto che abbiamo visto sulle TAC, forse anche perché lui ha questa predisposizione genetica. Senta, noi siamo molto contenti che Ötzi venga ogni tanto a trovarci, ma lei può dirci che cosa potremmo scoprire ancora di più sulla vita di questa persona? Sì, va bene, sulla vita adesso sappiamo veramente un sacco, anche come lui è morto, che sappiamo che era ucciso con una freccia, ma certamente vogliamo sempre sapere di più, anche per esempio chi ha ucciso Ezio, perché era morto, ma questo forse anche difficile a capire. E poi sul livello cinetico, anche sul livello delle proteine, ancora c'è molto da scoprire, perché abbiamo l'informazione cinetica che dice tutto che c'era, ma anche vogliamo capire qualche proteine, qualche enzimi lui ha poi prodotto con sul base dell'informazione cinetica. E poi ecco, anche da chi deriva, spulciando nel DNA, voi avete trovato delle somiglianze o comunque che potrebbe arrivare dalla Sardegna? Sì, abbiamo trovato somiglianze con la Sardegna e anche con la Corsica, ma non significa che lui è arrivato dalla Sardegna, significa che quelli che sono entrati prima in Europa, qualche mila anni prima di Ötzi, sono distribuiti in tutta Europa, ma poi dopo erano un cambiamento della popolazione e solo lì dove è un po' fuori, un po' isolato come nelle isole, qui era ancora presente oggi questo tipo di che è simile con Ötzi. Adesso il prossimo step è che vogliamo capire se anche qui in Alto Adige o qui vicino sono parenti di Ötzi, sono persone che hanno una somiglianza sul base genetica, ma per questo dobbiamo ancora analizzare lavorare. Persone viventi. Poi sarebbe bellissimo trovare eventualmente la pronipote di Ötzi o il pronipote di Ötzi. Questo sarebbe forse eccessivo. Ecco, poi questa mummia è visibile da tutti, dal pubblico, perché gli è stato costruito praticamente un museo attorno proprio lì a Bolzano, ma io sono rimasta veramente colpita perché su internet, se mi ricorda il sito, professore, c'è praticamente una visita virtuale alla mummia con la possibilità di ingrandire talmente tanto i particolari anatomici per cui si riescono a vedere i pori della pelle, è impressionante. Mi ricorda il sito? Sì, il sito è iceman.com. .eurac.edu. Scandiamo bene il sito iceman.eurac.edu. Comunque se mettete Ötzi su un motore di ricerca lo trovate facilmente. Va bene, grazie professore, speriamo di risentirla presto per altre notizie. Speriamo bene, grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Occhio, attenti perché siamo arrivati al quiz. Avete appena sentito le ultime novità su Ötzi. Quando fu ritrovato vicino al suo corpo c'era un'arma, e questo è il quiz di questa settimana. C'era un'arma. Quale? Una fionda, scriverete fionda. Una pietra appuntita, scriverete pietra. Un'ascia e scriverete ascia. Come al solito l'SMS è 349-238-6666. Il libro che si vince è La fisica in casa di Emiliano Ricci, Giunti editore, il libro offerto da Librerie Rizzoli, e Emiliano Ricci sta per arrivare qui in onda perché è anche arrivata la vostra domanda. E la domanda del nostro ascoltatore, che è il nostro ascoltatore? Allora, questa settimana ci ha scritto Daniele, però la domanda di Daniele è la stessa che ci è arrivata qualche settimana dopo da Gino Cecchettin della provincia di Venezia. Quindi entrambi gli ascoltatori ci hanno chiesto la stessa cosa. Voi continuate a scriverci comunque le vostre domande, i vostri rompicapo a mebius@radio24.it. Ma anche su Facebook. La nostra pagina di scienza, Mebius Scienza. Sentiamo l'ascoltatore. Buonasera, la domanda che volevo porvi è questa: perché quando si spegne il fuoco sotto la pentola il vapore aumenta anziché diminuire? Per capire il vapore e i suoi capricci abbiamo in linea Emiliano Ricci. E Alberto, non riusciamo agli otti, va fuori dalla porta. Lui, ma non fa rima. No, praticamente non fa altro Ricci, lo sai, va bene. Allora, qui il problema è questo, in effetti, per esempio col bollitore si vede bene, lo metti su, non esce vapore. Quando chiudi il fuoco, perché l'acqua sta bollendo, bluff, che esce un sacco di vapore. Sì, è vero. E questa è la domanda. Come mai? Sì, esattamente. Allora, buonasera a tutti. piacere di trovarvi. E la domanda dell'ascoltatore è la classica domanda da milione di dollari, perché sono quelle domande di fisica quotidiana che raramente trovano risposte semplici, anzi direi che quelle di fisica quotidiana sono quelle più complesse. E quindi la risposta che si può dare è questa fondamentalmente: quando si spegne il fuoco sotto la pentola, quello che succede è che noi togliamo la sorgente di energia che alimenta il moto dell'acqua all'interno della pentola. Nel momento in cui la pentola si sta riscaldando e soprattutto arriva all'ebollizione, all'interno dell'acqua, del volume di acqua della pentola, si attivano quei cosiddetti moti che sono chiamati convettivi, che ci sono anche nell'atmosfera, ci sono in tutti i fluidi in cui ci sono delle differenze di temperatura fra una zona e un'altra, in quota ovviamente. E questi moti convettivi come funzionano? Che sostanzialmente nella parte bassa della pentola, dove c'è appunto il contatto con la fiamma, l'acqua si riscalda di più di quella che è in superficie. L'acqua calda tende ovviamente a salire, a occupare lo spazio che è occupato in superficie da acqua leggermente più fredda, e diciamo si attiva questo processo che è quello appunto delle celle convettive, con l'acqua calda che sale su, sostituisce l'acqua fredda, si raffredda, ritorna giù, si riscalda, e quindi c'è una sorta di moto rotatorio in verticale. È un vortice, certo. È un vortice, bene. E questo che cosa implica quando il fuoco è ancora acceso? Che sostanzialmente l'acqua calda che arriva in superficie riesce a liberarsi di un po' di vapore, ma viene subito dopo risostituita da altra acqua calda che arriva da sotto. Quindi parte, diciamo, del vapore di cui potrebbe liberarsi rimane intrappolato, perché c'è questo moto che riporta giù l'acqua in maniera rapida. Quando noi spegniamo il fuoco, togliamo la sorgente che alimenta questo movimento, e quindi tutta l'acqua calda che è in basso tende a salire in superficie contemporaneamente con un moto vorticoso. Praticamente in quel momento si vede proprio la superficie dell'acqua nella pentola che ribolle in maniera molto, molto più caotica di quanto si osserva invece quando la fiamma è accesa, e a quel punto non c'è nessun moto che riporta giù la cella di acqua calda, e quindi tutto il vapore può liberarsi sostanzialmente. Il motivo per cui noi vediamo al momento dello spegnimento proprio la nuvolona di vapore è perché non c'è più la cella che viene riportata giù nel moto convettivo, e quindi tutta l'acqua calda arriva su e si raffredda in pochissimo tempo. Siamo soddisfatti? Assolutamente sì, ma vedi, Alberto, allora c'era una soluzione. Perché all'inizio sembrava che tu dicessi che non è molto capita ancora la cosa, invece no, è compresa. Sì, no, questa è la spiegazione che si può dare facendo diciamo considerazioni di termodinamica semplici e lavorando un po' di intuito. Quello che dicevo è che in realtà non esiste nessuno studio che è stato fatto su questo argomento. Cioè, ci sono, quindi c'è spazio per uno studio, insomma. Sì, che invece è uno dei tanti aspetti interessanti della fisica quotidiana, per il quale si potrebbe studiare anche proprio in maniera quantitativa. Certo, in maniera. Assolutamente contagiato da Alberto, mi viene da dire, sarebbe la scoperta dell'acqua calda. Non ho resistito. Bene, non ho resistito. Usciti piace entrambi dallo studio. Dopo i capricci di Ricci. Esatto. Grazie Emiliano. Ci sentiamo senz'altro una prossima volta, perché qui arrivano un sacco di domande. E io sono contentissimo di essere vostro ospite. Bene, a presto, grazie. Emiliano. Grazie mille, a presto, buon lavoro. Sto scorrendo l'elenco, ma noi non possiamo partecipare. No, eh? No, siamo esclusi dalla selezione. Eppure avremo, con tutto questo patrimonio che abbiamo raccolto con le domande, un minuto a testa veniva benissimo. Ecco, uno, sì, invece però non si magari può. Raccontiamo agli ascoltatori di cosa stiamo parlando. Famelab. Dillo tu, cos'è? Finalmente è arrivato il anche talent qua. Show per la scienza. Allora, addio X Factor, addio tutto il resto, amici e quant'altro. Non si canta qua. Non si canta, ma si esprimono concetti di scienza. Ma magari si canta anche, chi lo dice? Sì, puoi fare quello che vuoi. Allora, vedo qua dall'elenco, puoi fare quello che vuoi. 3 minuti le hai regole, a disposizione. Ecco, sono precise. Per raccontare un tema di scienza che devi un po' divulgare che ti piace. E che deve essere accattivante, però. Non mi interessa che tu mi racconti, ad esempio, la legge della termodinamica così, che me la enunci e basta. Ma devi raccontare, certo, in maniera accattivante, in 3 minuti. Avremmo fatto un figurone, no? Mamma mia. Con tutte queste domande che abbiamo risolto. Infatti. Anche questa qui della pentola, in 3 minuti, viene benissimo. Sì, però diamo le qualche scadenza, perché qualcuno in ascolto, se volesse partecipare, noi purtroppo siamo esclusi, perché dalla competizione sono esclusi tutti i professionisti del genere, quindi giornalisti e professionisti come noi, no? Perché mi guardi e ridi? No, perché dicevo... Sei escluso pure tu. Vabbè, diciamo che sei escluso. Okay. Però possono partecipare tutti coloro che lavorano nell'ambito scientifico, come studenti, docenti, ricercatori, cioè coloro che hanno le mani in pasta nella scienza, ma che spesso non la sanno ben raccontare. Si vince qualcosa? Dirti la verità non lo so, ma di sicuro la fame e la gloria sì. La fame, direi. La fame. Che però non... si scrive... Fame. Fame. Ecco, non la fame, non speriamo si dice di niente, no. Però la fame. Vi voglio ricordare le date. Ecco, allora... Ecco. Se siete nei dintorni di Napoli, non potete perdere la selezione del 25 marzo alla Città della Scienza. Perfetto. Per chi si trova nei pressi di Bologna, il 30 marzo, il luogo ancora da definire, ma trovate tutto sul sito, il 30 marzo anche a Trento, presso il Museo di Scienza, e invece il 31 marzo a Perugia. Ma attenzione, qui vengono selezionati. Poi c'è la grande finale. Ah. La grande finale nazionale. Che? A Perugia, il 4 maggio. E da lì ragazzi, si va in Europa. In Europa. Finale internazionale, ci sono 19 paesi concorrenti e si tiene dal 12 al 16 giugno, quindi hanno bisogno di ben 4 giorni per selezionare i migliori, a Cheltenham durante un festival di scienza. E ci si può iscrivere sia attraverso il sito? Assolutamente sì. Ma ci si può anche presentare di persona. All'ultimo momento? Può presentarsi lì. Ovviamente i ragazzi o coloro che si presentano sono giudicati, come in un talent show, come X Factor per intenderci, da una selezione di giudici molto molto competenti, quindi giornalisti di scienza ma anche docenti universitari. E non c'è il tutor come X Factor? Non so, Piero Angela che no, prepara? No, non ci risulta. Non ci risulta. Niente. Però ti stiamo candidando. Ovviamente noi li seguiremo perché, insomma, in radio si presta molto bene a far sentire quello che verrà fuori. Cosa diavolo verrà raccontato? Speriamo di avere qualcuno che va in Europa. Partecipate numerosi. Mebius presenta Nano Channels. Nano Channels. Il progetto europeo sulle nanotecnologie. E questa è la solita sigla, quella che sentite in corrispondenza dei nostri appuntamenti dedicati al progetto europeo Nano Channels. Vi ricordo, è questo progetto che è dedicato a capire che cosa il largo pubblico pensa, ma anche settori specifici del pubblico pensano rispetto alle nanotecnologie, e poi anche a fare informazione e comunicazione. Però oggi, ecco qui con me Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao. Forse abbiamo raggiunto un record. Non so se a Radio 24 sono mai arrivate 28 persone in uno studio. Questa volta andiamo in onda in 30. In 30. È un record. Credo assolutamente un record. Come facciamo a far sentire che sono in 30? Dite ciao, tutti insieme. Ciao. Bravi. Questo chi sono? Allora, è la scuola Ettore Majorana, è un liceo scientifico di Capannori, vicino a Lucca. Una quarta liceo? Quarta liceo? Quinta liceo. Siete dell'ultimo anno. Perché sono qui? Beh, adesso ve lo spieghiamo. Quando si parla di nanotecnologie, Chiara, tu lo sai benissimo, anche i nostri colleghi, gente che fa giornalismo e informazione, ma non nel campo scientifico, beh, insomma, non è che hanno molto chiaro. Brancola un po' nel buio, sì, possiamo sì, dire così? Sì, diciamolo così. Cioè hanno sentito questo termine ma non ne sanno molto di più. In effetti è una rivoluzione grande, importante, che sta per arrivare. Però invece questi ragazzi e ragazze che sono qui con noi in studio, e invece no, sono decisamente più avanti, perché è parecchio tempo, insomma, che stanno lavorando sulle nanotecnologie. Non a caso li abbiamo invitati. Qui con noi ai microfoni ci sono Filippo Generali. Ciao Filippo. Salve a tutti. Sara Andreini. Ciao. Salve. Sara. E Erika Garinetti. Salve. Allora, voi siete un po' i portavoce della vostra attività, però poi se qualcun altro vuol dire delle io cose... Io posso cedere il mio microfono. Tu puoi cedere il tuo microfono. Quanto tempo è che lavorate su questi temi, Filippo? Beh, noi abbiamo fatto un percorso che è partito dalla quarta soprattutto, ma anche in quinta. So che avete scritto cose, no? Avete fatto parecchie discussioni, insomma è un lavoro... sono poche le porzioni di popolazione in un paese come il nostro che ha già lavorato sulle nanotecnologie, che le ha già un po' studiate. Sì, il fatto che siano entrate a scuola è ancora più una notizia, forse. È ancora più una notizia perché, ecco, anche giustamente ricorda Chiara, se anche parliamo di scuole, non è affatto vero che in questo momento in tutte le scuole si sta dibattendo questo tema. Siete un po' dei prototipi, insomma. Fatta questa premessa, quindi, che idea vi siete fatti di questo grande marchingegno che si chiama nanotecnologie e che è qualcosa che sta per arrivare e non è una tecnologia applicata in un solo campo, è qualcosa che attraverserà praticamente tutte le attività umane, perché si va dallo spazio alla medicina, no? Ecco, allora, per esempio, Erika, che idea vi siete fatte di questo grande macchinone che sta per arrivare? È un tema molto importante, naturalmente, anche da discutere, e essendoci ancora molte ricerche da fare nell'ambito, anche avere proprio un'idea specifica è molto complicato. Però diciamo che l'idea è quella di un possibile sviluppo molto importante sia per il nostro futuro, perché comunque essendo giovani poi siamo noi che le vedremo più applicate. Sì, più... certamente. Certo. Però secondo noi ci dovrebbero essere molte ricerche e anche uno stretto rapporto sempre tra scienza e società, quindi anche molta informazione, ed è importante che ci sia nelle scuole, visto che è il punto più basso appunto dove deve partire l'informazione. Dove c'è l'informazione di base. Sara, vedete più problemi o più opportunità? Vi sembra che in generale, per quello che avete visto voi, pongano più problemi, più difficoltà, o anche ci sono delle grandi buone prospettive? Cos'è? Secondo me, ma comunque penso sia opinione abbastanza diffusa, non c'è proprio un'idea precisa, perché da una parte potrebbero portare e portano sicuramente progresso, e da una parte però ci sono anche rischi che probabilmente devono essere ancora studiati o comunque compresi. Rischi dal punto di vista ambientale o comunque, non lo so, però noi come nostra generazione vediamo più un progresso che un rischio. Siete d'accordo tutti e tre voi? Tutto se è accompagnato dal dibattito. Soprattutto se c'è discussione, sì, su queste cose. E Filippo, ad esempio, è percepito come un tema un po' ostico quello delle nanotecnologie, un po' complicato. Forse metterci le mani in pasta semplifica un po' le cose, cioè potete dirvi insomma di capirne di più e di saperne parlare, saperne, sì, argomentare, cioè, un po' di più. L'avete trovato complessissimo oppure entrandoci dentro si capiscono le cose? No, allora il funzionamento specifico delle nanotecnologie c'è ancora un po' oscuro, però il funzionamento generale lo sappiamo abbastanza bene. Però quello che succede a scala nanometrica e gli effetti e come si comporta la materia non ne siamo ancora tanto coscienti. Forse le applicazioni, sono un po' più, sì, chiare, sì, infatti. Applicazioni, sì. Soprattutto nel campo delle calze. Esatto. Perché una cosa che allora è interessato in modo particolare, ma lo so che non è vero che guardate al futuro perché verrà risolto il problema delle calze. Le calze puzzolenti. Esatto, perché le nanotecnologie potranno anche intervenire nel essere presenti nei tessuti e eliminare certi odori generati dai batteri. Infatti credo che tra l'altro questo tipo di calze stiano già arrivando, qualcosa c'è già sul mercato. Però cosa hanno fatto loro? Hanno fatto una specie uno spot pubblicitario proiettato, potrebbe essere anche nel 2015, ma nel quale ci saranno un sacco di opportunità in questo campo che riguarda le calze. Sentiamolo! Sentiamo. Abbona! Oi che tu vuoi? Dammi il tuo numero che ti faccio passare una bella seratina, va? Oh sì, oi chi tu saresti? Sono la scarpa della tua vita, so. Ci sono le scarpe che respirano, sì? A me mi batte il cuore, mi batte! Eh sì, dall'odore e non si direbbe proprio. Questo è l'odore della scarpa maschia, oh! Semmai marcia! Ha parlato la scarpa del gelsomino, ha parlato! Oh, guarda questo, oi che tu credi? Io c'ho la calza antibatteria! E che è sta roba? Non le voglio mia ste raffinatezze! Ehi, è all'ultima tecnologia, anzi, nanotecnologia. Nano che? Oi che ignorante che tu sei. Nanotecnologie, e non le conosci? Una scarpa vissuta come te, o mi di che non hai mai sentito parlare? Mi informerò, ma insomma, me lo dai il tuo numero o no? O come no? È il 38. Allora, abbiamo qui lo scarpone che è... Giacomo, salve a tutti gli ascoltatori di Radio 24. E... la scarpa col tacco. Giulia. Ma come vi è nata questa idea, Giacomo? Ma questa idea è nata da un bisogno di sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone riguardo alla tematica delle nanotecnologie. Quale se non l'ironia come uno dei modi migliori per farlo? E abbiamo scritto questo sketch di nostro pugno, sperando, in maniera anche divertente, sperando che le persone che l'ascoltano recepiscano il messaggio dell'utilità di queste nanotecnologie, sia per quanto riguarda problematiche di poco conto, come ad esempio quella degli scarponi malodoranti, oppure anche tematiche un po' più particolari e molto più complesse. Perché insomma le nanotecnologie potrebbero risolvere questi gravi problemi domestici. Sì, certo, le nanotecnologie diciamo che vengono applicate in ogni campo e in ogni settore della società, e va dallo sport alla sicurezza. Ad esempio non solo gli scarponi sono utilizzati con componenti nanometriche, abbiamo parlato anche di giacchetti con rivelatori GPS, abbiamo parlato ad esempio una cosa che interesserebbe soprattutto più giovani, di occhiali da sole con incorporato un sistema musicale come ad esempio un iPod, che va addirittura ad energia solare, diciamo tanti oggetti che senza alcun ombra di dubbio migliorerebbe la nostra vita e le nostre e anche la il nostra tempo società. Libero e anche il tempo libero, perché no? In generale le grandi tecnologie ogni tanto si presentano nella storia dell'umanità, non? Quello che sta avvenendo adesso con l'arrivo delle nanotecnologie è avvenuto precedentemente non molto tempo fa con internet, no? È stata una grandissima rivoluzione, oppure se torniamo indietro, insomma, a un certo momento si è incominciato a volare, quindi arrivano queste grandi innovazioni. Mi piacerebbe, non so se riusciamo anche a fare una votazione qua, visto che abbiamo tutti e 30, che cosa in generale pensate voi rispetto al presentarsi di queste tecnologie? Per dirla più semplicemente, avete abbastanza fiducia in quelli che producono scienza e tecnologia oppure no? Beh, direi di sì, perché anche per quanto riguarda le generazioni si mira sempre a qualcosa di straordinario, di nuovo, di innovativo, anche nel campo dell'elettronica, cellulari, che sono comunque usati costantemente, si mira sempre a innovazioni di maggior successo. Abbiamo anche visto un video su internet che riguardava un cellulare, che era semplicemente un foglio, non so, di plastica. Sottilissimo. Sì, certo. Che si può piegare addirittura e mettere al polso, cose del genere. E questo tipo di scenari vi sembra stimolante, suggestivo? Non è una cosa che vi mette timore invece? Cioè non c'è nessuno che la pensa invece diversamente, non so, che magari è più conservatore e pensa che portino non soltanto aspetti positivi. Sì, cambiamenti pericolosi. C'è qualcuno? Chi è che pensa che siano, facciamo una votazione, chi è che pensa che siano tendenzialmente tutte cose positive? Beh, direi che il 70-80% non ha dubbi, ha visioni positive. Filippo? Nel senso, non è che non ho dubbi che queste innovazioni tecnologiche portino sviluppo. Ho dubbi soprattutto sulle possibili applicazioni che potrebbero avere, come si è presentato ora, per l'energia nucleare, ad esempio. Ed è per questo che, come ho già detto prima, ci vuole un lavoro di informazione, di dibattito e soprattutto di informazione e di partecipazione dei cittadini. Anche un po' lo studio del rischio, forse, sì, in questo senso. Sì. E mi pare che il vostro liceo sia promotore di un'iniziativa proprio su questo tema, no Erika? Sì, infatti il 15 marzo al centro Arte a Capannori alle 20:30 ci sarà un incontro proprio su questo tema. Il titolo è Nanotecnologie e Privacy, rischio e opportunità quando il GPS diventa nano. Che è organizzato da voi, dalla vostra scuola. Sì. E adesso dobbiamo salutarli, mi dispiace un po'. Avvenne 30 in studio, un elemento stimolante. Tornate a trovarci. Salutiateci tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. E buon lavoro. Bravi. Con Barbara Gallavotti. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Ne parleremo molto di più la prossima settimana, però c'è questa notizia appena arrivata, ancora una volta dal CERN di Ginevra, però riguarda materia oscura. Sì, riguarda la materia oscura, l'antiidrogeno. L'esperimento si chiama ALFA, è un esperimento che ha avuto un risultato molto importante lo scorso anno, perché ha intrappolato per addirittura 16 minuti degli atomi di antiidrogeno. Che di solito se ne andavano via rapidamente. Nell'ordine di pochi millisecondi. Esatto. Allora, qual è l'interesse dell'antidrogeno? L'antidrogeno è una forma di antimateria. L'antimateria è un qualcosa che esiste nell'universo, che si calcola che sia stato molto abbondante subito dopo il Big Bang, ma che è difficilissimo studiare perché appena incontra della materia, per esempio un atomo di idrogeno, entrambi si annichilano in un lampo di energia. Allora, cosa ha fatto Alfa questa volta? Come dicevo, un anno fa ha intrappolato gli atomi di antidrogeno per un tempo molto lungo, 16 minuti. È un tempo lungo, è quello che poi permette di studiare veramente le caratteristiche di questa strana forma di materia. E questa volta invece ha usato una specie di laser, un laser a microonde, per eccitare gli atomi di antidrogeno. Di antimateria, certo. Esatto. Qual è l'interesse di fare una cosa del genere? Beh, è il primo passo verso esperimenti con un laser che guarderanno, sono stati concepiti per capire se dopo essere stati eccitati gli atomi di antidrogeno ritornano allo stato di quiete emettendo dei fotoni esattamente con la stessa frequenza di quelli emessi da un atomo di idrogeno dopo essere stato eccitato. Quindi è un modo per, sarà un modo quando si farà l'esperimento con un laser per vedere se effettivamente materia e antimateria si equivalgono. Quindi in pratica siamo riusciti, si incomincia a lavorare sull'antimateria e quindi riusciamo a capire com'è fatta. Questo è quello che si cercherà di fare. Sì, il grande interrogativo è capire, per esempio, perché noi siamo tutti di materia e non di antimateria. L'antimateria è identica alla materia, ma ha cariche opposte. Quindi, per esempio, un elettrone ha una forma di antimateria corrispondente che è l'antielettrone o positrone, che anziché essere negativo come l'elettrone è positivo. Barbara, ci fermiamo qui, la prossima settimana vediamo di capirci di più, l'abbiamo trattato questo argomento perché è appena uscito. Ciao Barbara, grazie. Ciao Federico, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Una rivista importante che citiamo spesso, Nature, una rivista internazionale di grande prestigio, la scorsa settimana ha pubblicato un servizio molto ampio su una storia che proprio non è delle migliori. Per parlare di questa vicenda ho qui con me Gilberto Corbellini. Buonasera Corbellini. Buonasera. Docente di storia della medicina alla Sapienza di Roma, ma anche autore di tanti articoli, commentatore di scienza, quindi ci diamo del tu. Lascio a te, Gilberto, portarci indietro, credo, di una sessantina d'anni. Sì, dobbiamo andare all'immediato secondo dopoguerra, siamo nel 1946, siamo in Guatemala e un medico igienista statunitense che si era occupato, che si occupava di studiare le malattie di trasmissione sessuale, soprattutto sifilide e gonorrea, e quindi anche di vedere come la penicillina poteva, che era da poco entrata in uso, poteva essere usata, si trasferisce in Guatemala, fa un accordo con il Dipartimento per la lotta contro le malattie venere in Guatemala per fare un esperimento su 5.000 guatemaltechi, tra cui prigionieri, soldati, malati di mente, orfani, prostitute, che vengono sottoposti a vari tipi di esperimenti per infettarli o per far circolare in qualche modo l'infezione sifilitica. E ovviamente questo tipo di esperimenti vengono fatti senza chiedere a queste persone alcun consenso, per esempio, insomma, 1.308 adulti, tra cui in larga parte militari, subiscono delle iniezioni di treponema sifilitico. Quindi il fatto grave è che non si operava in modo arbitrario su gente già malata, ma sono proprio cavie. In entrambi i casi, insomma, ovviamente sì, si prendevano, certo, delle prostitute sifilitiche, per esempio si sono testati 1.300 persone per vedere se erano infettate, poi queste persone infettate per esempio si facevano accoppiare anche obbligatoriamente, insomma, con persone non infettate per vedere quanto l'infezione si trasmetteva naturalmente e vedere anche se poi assumendo la penicillina o qualche altro farmaco si poteva prevenire la trasmissione. Poi, visto che la trasmissione della sifilide in modo naturale non è poi una cosa così efficace, ora non bisogna fidarsi, ma insomma le malattie, diciamo, infettive richiedono anche un certo impegno per trasmettersi, allora questi gliele inoculavano direttamente via diciamo con delle iniezioni. È impressionante in questa storia il numero delle persone, sono 5.000, quindi sì, veramente un'operazione di massa. Però, certo, sta venendo fuori adesso, ma ed è abbastanza eclatante appunto per questi numeri così elevati. Il problema è, Corbellini, che non c'è una particolare eccezionalità in questa storia. No, non c'è una particolare eccezionalità. Secondo me questa storia contiene molti insegnamenti. Intanto diciamo che va dato atto agli Stati Uniti che hanno tirato fuori questa vicenda. C'è stato anche il pronunciamento della Commissione di Bioetica statunitense che ha invitato il governo a riparare a questo enorme, diciamo, danno fisico e morale che è stato fatto alla popolazione guatemalteca. E c'è un atto, una grossa discussione in quel paese. Naturalmente Obama ha chiesto scusa, eccetera. Il fatto è che questi esperimenti e queste cose si sono fatte in continuazione per anni negli Stati Uniti. Lo stesso John Cooter, che è stato il medico che ha fatto questi esperimenti, poi è stato coinvolto anche in un altro infame esperimento che è il Tuskegee Study, sempre su persone di colore, sifilitiche in questo caso, che vivevano nel sud degli Stati Uniti, a cui è stato sottratto il trattamento fino al 1972 per seguire la storia naturale della sifilide. E tutte queste vicende poi che si sono verificate proprio negli Stati Uniti sono state quelle che hanno scatenato una sorta di rivolta politica e morale che ha fatto nascere quella che noi oggi chiamiamo e conosciamo come bioetica. Quindi e poi teniamo conto, insomma, anche che siamo negli anni subito dopo il processo di Norimberga. Sono processi di Norimberga, inizia nell'agosto del 46 e il codice di Norimberga viene promulgato alcuni mesi dopo, cioè nel 47, e quindi insomma quegli esperimenti avvenivano in un contesto dove effettivamente la medicina, come diceva un bioeticista, veniva praticata in larga parte in un vuoto morale. Ora molti dicono c'è il giuramento di Ippocrate, eccetera, ma insomma il giuramento di Ippocrate conta poco. Insomma, non è che io mi posso fidare di uno, insomma, che giura che non mi fa del male, quando in realtà poi se non c'è una legge, se non c'è qualcuno che controlla, per esempio, i comitati etici che poi entrano in gioco, per esempio il fatto che sia obbligatorio il consenso informato, che sono tutte cose che entrano in gioco successivamente. Se non ci sono questi vincoli, effettivamente il rischio era molto grosso, e attenzione, perché è molto grosso anche adesso. E questa secondo me è una lezione importante, perché l'FDA ha studiato recentemente, diciamo, l'origine dei dati clinici della sperimentazione sui farmaci. Ebbene, nel 2009, credo, l'80% dei dati clinici di sperimentazione sui farmaci le case farmaceutiche le avevano ottenute in paesi che non erano gli Stati Uniti, e in larga parte in paesi in via di sviluppo, cioè in paesi dove il livello di sorveglianza etica sulla sperimentazione clinica è molto, ma molto più basso. Quindi è una situazione che secondo me merita una attenta riflessione da parte della comunità scientifica e della società in generale. Ti chiedo un'ultima cosa, Gilberto. Al processo di Norimberga, nel quale appunto si trattò, fra le tante mostruosità, anche di tutti gli esperimenti che venivano fatti sugli internati nei lager, a un certo momento quello che venne fuori è che i risultati di questi esperimenti non potevano essere utilizzati nella ricerca, non potevano essere citati nei lavori di ricerca successivi come appunto risultati interessanti, perché ahimè purtroppo potevano assolutamente esserlo, interessanti dal punto di vista medico, cioè dovevano essere banditi. Questo per tutte le cose che uscivano da Norimberga, ma per esempio di questi esperimenti qua, come questo guatemalteco? Ma questo esperimento guatemalteco fu un fallimento. Molti di questi esperimenti sono stati dei fallimenti perché non avevano una base metodologica. Sugli esperimenti di Norimberga però attenzione, perché alcuni esperimenti, fatti nei campi di concentramento nazisti, attenzione, perché invece alcuni esperimenti sono stati a lungo citati, per esempio gli esperimenti di congelamento. Certo. Gli esperimenti fatti di congelamento sono stati citati in letteratura e fino a quando il New England, sul New England Medical Journal non apparve uno studio in cui disse smettetela di citare questi esperimenti, perché a parte il fatto che erano immorali e che quindi insomma è un po' disgustoso vederli citati, ma non avevano una base metodologica attendibile. Non ci possiamo nemmeno ricavare delle informazioni. Sì, sì, certo, cioè fu un monito largamente disatteso, esatto, no? Certo. Esatto. E però quello che tu aggiungi è che oltretutto questo tipo di sperimentazione era fatta in modo estremamente superficiale, quindi non attendibile, quindi danno, beffa, tutto c'è messo. Beh, sì, perché poi in realtà noi abbiamo, e secondo me non è un caso, insomma, abbiamo che l'introduzione delle metodologie di sperimentazione clinica, cioè il trial clinical, la randomizzazione in doppio cieco, tutte quelle cose che ti consentono di ottenere dei dati affidabili, entrano in gioco in concomitanza con l'elevarsi, diciamo, della sensibilità etica, perché nel 64 abbiamo la dichiarazione di Helsinki che riprende alcuni degli argomenti del codice Norimberga, ma a quel punto viene avvallato dalla comunità medica mondiale e da quel momento in poi, e oggi soprattutto, non si può pubblicare alcun tipo di dato ottenuto da una sperimentazione su soggetti umani in cui non si dica che se sono stati rispettati, diciamo, le indicazioni della dichiarazione di Helsinki. E quindi è evidente che, secondo me, tra l'altro, non è nemmeno che si possa contrapporre, diciamo, l'etica alla qualità della ricerca, cioè la qualità del dato clinico e della ricerca è intrinsecamente o intrinsecamente etico, oltre al fatto che il medico si impegna a produrre dei dati obiettivi, ma o è intrinsecamente etico e quindi implica il consenso e tutta una serie di cose, o anche un dato che è qualitativamente di scarso interesse e a volte del tutto fuorviante per le conoscenze mediche. Grazie Gilberto, una storia brutta, ma come abbiamo visto assolutamente non unica. Grazie ancora e buon lavoro, ciao. Grazie, ciao. A distanza di quasi un anno dal terribile terremoto che l'11 aprile del 2011 ha aggredito, è il caso di usare questo termine, quasi un terzo del territorio giapponese, i geologi hanno costruito un documento singolare accoppiando le misure effettuate dai sismografi a una sonorizzazione delle onde sismiche con i loro picchi e le loro valli, tutto nei primi 20 secondi, quelli più distruttivi nei quali il sisma si è manifestato. Non si tratta di un gioco mediatico. Questo esperimento collega la visione del grafico prodotto dal sismografo, un grafico nel quale le onde sono registrate con grande accuratezza, collega questa visione a una puntuale riproduzione sonora di tutta l'evoluzione del segnale registrato. Sentiamo questo documento che ci riporta alle 17:16, ora locale del Giappone, dell'11 aprile dello scorso anno. Il primo grande boato che avete sentito è quello della scossa iniziale, quella che ha raggiunto il nono grado della scala Richter. L'abbinamento suono-grafico consente un'interpretazione, uno studio più corretti di come il sisma si è innescato e propagato. È uno strumento utile per analizzare meglio i dati e per confrontare quanto rilevato dai sismografi in tutto il mondo nel caso di un terremoto di queste proporzioni. Ascoltate per esempio quale effetto il terremoto giapponese ha proiettato in California, 6.000 km di distanza, dove la faglia di Sant'Andrea si mise in moto per propagazione del sisma. Ho solo pochi secondi per chiudere la trasmissione, però vi devo dare la soluzione del quiz. Vi ricordate qual era l'arma che aveva con sé Ötzi? Bene, non era una fionda, non era una pietra puntita, era un'ascia. E di corsa vi auguro una buona settimana, ci sentiamo qui fra 7 giorni.